Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Cominciamo con un po' di musica che ci introduce il tema e anche in realtà l'ospite di questo venerdì. Molto breve questo Asafran, ossia Zafferano, tradotto in italiano, con cui apriamo lo Zibaldone di quest'oggi, di Paolo Angeli, che sarà anche il nostro ospite. Ma do subito il benvenuto e auguro buon pomeriggio al nostro ergonomico Banzo, ti ho chiamato, non era mai successo. Banzo, come stai? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, è un inizio veramente straordinario. Bango, sono felice. Come ti piace? Sono felicissimo. No, non tanto, però mi ha fatto molto ridere. E insomma, il bello della spontaneità, ecco, vedete. Comunque qui stiamo buttando in cacciara secondi preziosi e il tempo in radio è tiranno. Attenzione alle consonanti, Steven. Dunque, sì, abbiamo cominciato con un brano breve che introduce la puntata di Zibaldone, forse dal titolo più breve in anni e anni di programmazione, perché il titolo di oggi è Lema, 4 lettere, però non vi spiego troppo dettagliatamente cosa implica questo titolo, dico soltanto che è a sua volta il titolo del nuovo album di Paolo Angeli, che è il nostro gradito ospite di oggi, un album uscito il 9 maggio, quindi abbastanza fresco, però insomma magari sarà lui a parlarci direttamente del disco e di perché ha scelto questo titolo così lapidario, così laconico, ecco. Possiamo cominciare dicendo che è l'ovvio quando si parla di Paolo Angeli, brano bellissimo, tocco inconfondibile, e poi l'altra parola chiave quando si parla di questo musicista, di questo album, della sua carriera in generale, è chitarra sarda preparata, ovviamente. Sì, e anche di questo comunque sicuramente parleremo con lui. Paolo ci aspetta già in collegamento telefonico da Valencia, dove vive negli ultimi anni, dopo essere stato parecchi anni anche a Barcellona, si muove spesso, ha fatto una tournée negli Stati Uniti, non è la prima di tantissime date, viaggia molto in Italia, in giro per l'Europa. Insomma, vabbè, è uno dei grandissimi artisti italiani ed è un piacere riaverlo con noi. Lui è stato varie volte ospite in tutti questi anni a Zibaldone, e questo disco è molto bello e soprattutto come insomma ascolterete e ci racconterà sicuramente anche lui, ha dietro un progetto secondo me molto molto importante. Però insomma lo lasciamo spiegare Banzo al nostro Paolo Angeli e poi però approfittiamo questa puntata, oltre perché scoprire il nuovo disco di Paolo Angeli, anche per scoprire altra musica che ha a che fare con i viaggi tra culture, con gli stili musicali e le sperimentazioni. Ma insomma, io direi, Banzo, di andare subito a bomba ad ascoltarci un'altra canzone di Paolo Angeli e poi di ritornare insieme a lui e chiacchierare insieme a Paolo Angeli, che ha sempre tante cose belle da raccontarci. Shumara è il... Hai assolutamente la mia benedizione. Vai. Oh, allora, dopo la tua benedizione andiamo ad ascoltarci Shumara, che è stato anche, per così dire, il singolo, la canzone che ha lanciato questo disco uscito appunto, come ci dicevi tu, poco più di un mese fa. Shumara, Paolo Angeli dal suo Lemma, nuovo disco uscito in questo 2025. Thank you. E questa era Shumara, la seconda canzone che vi proponiamo del nuovo disco di Paolo Angeli, Lema, uscito da pochissimo, 14° disco da solista, registrato tra la Spagna, la Catalogna concretamente, e la Sardegna. Ma insomma, di tutto questo ne parliamo insieme a Paolo Angeli, che ci accompagna quest'oggi a Zibaldone. Paolo, bentornato, è un grande piacere averti con noi. Ah, sono felicissimo, certo, ho molta nostalgia di farlo, diciamo, fisicamente nella sede, non so se è rimasta la vostra sede non, storica. Non è più quella la sede, ma comunque sarebbe sempre più bello farlo face to face. Sì, no? Era un ricordo meraviglioso di quella sessione che avevamo fatto in una Barcellona veramente iconografica di un periodo storico stupendo, che coincideva con la mia permanenza lì, insomma, 16 anni consecutivi in città, quindi un ricordo bellissimo. Ma torneranno in qualche altro luogo anche gli incontri in persona. Ascolta una cosa, andiamo subito a bomba su questo disco, perché è un disco molto bello, i nostri ascoltatori ne hanno già avuto prova anche con questo brano Shumara, che è stato anche il singolo, ma partiamo dal titolo, Lema, no? Che si può leggere in spagnolo ma anche in sardo, se non sbaglio, vero? Sì, sì, diciamo, lema in spagnolo equivale un po' al concetto di motto, di slogan, però allo stesso tempo lo slogan in sé è un qualcosa che sintetizza ad albero un pensiero complesso, è come proprio la punta di una piramide, di un pensiero complesso. In questo caso per me il lema è una sorta proprio di autobiografia di un periodo della mia vita in cui ho dovuto affrontare una serie di lutti importanti, e ha a che fare un po' col concetto storico, diciamo un po' elaborato da tutte le culture tradizionali e non, della relazione fra, in questa terra di transizione che c'è fra il passaggio tra la vita e la morte e la rinascita. In questo senso lema in sardo invece è proprio questo spazio che si ha fra i due elementi, sas lemas, che sono appunto, che so, possono essere, anche per farti un esempio, due ciocche di capelli, una destra e una sinistra, che in qualche modo delimitano uno spazio. Ecco, il mio album si snoda in questa terra di confine che, come cultura occidentale, noi abbiamo sempre un po' il timore di vivere, di ascoltare, di attraversare, mentre invece per millenni le culture, se andiamo a vedere dalle culture degli egizi fino ad arrivare all'epoca, nel mio caso, visto che sono sardo, dell'età nuragica, c'è sempre stato un rapporto molto sereno col culto della trasformazione, del passaggio, il rituale proprio della trasformazione. E in questo senso Shumara, il brano che abbiamo ascoltato ad esempio, è una poesia, intanto quella che ho cantato, che è di un poeta dell'Ottocento gallurese, si chiama Petro Alluttu, e appunto era un prete, che dice: il sole riflesso dalla profondità del mare passa e ti veste del suo splendore. Nelle antiche culture minoiche di Creta il mare era visto proprio come la transizione per raggiungere l'aldilà, e soprattutto il sole, quando rifletteva sull'acqua, diventava proprio quasi la guida per seguire il processo della rinascita. E quindi l'idea che invece Shumara in gallurese sia la foccia del fiume dove arriva l'acqua dolce, si incontra con l'acqua salata, porta con sé i detriti del tempo, trasforma la stessa acqua salata, crea questa proprio nuova concezione di distesa azzurra, che poi invece va a fondersi con i detriti della terra. Un po' parla di tutto questo l'album, è una sintesi proprio di un pensiero semplice e complesso allo stesso tempo. Ascolta, Paolo, questo album è anche in fin dei conti un viaggio, no? E non solo perché c'è una lunga suite, dopo magari parleremo anche della parte più musicale, ma proprio anche, in parte già ce lo accennavi, anche per diciamo le ragioni che ti hanno portato a costruire, a scrivere e a suonare questo album. Sì, assolutamente, sono d'accordissimo che è un viaggio. Diciamo che il mio modo di suonare anche dal vivo è sempre quello del concetto di creare delle suite che trasportino in una dimensione di abbandonare un luogo per trovarsi poi in un altro, in un'altra dimensione spazio-temporale e investigare tutto quello che c'è nel percorso. Sai, noi molte volte, soprattutto nell'età contemporanea, ci muoviamo dal punto A al punto B con l'obiettivo dell'arrivo e non concepiamo quasi mai il viaggio. Cioè, l'idea è essere imbottigliato in questo percorso che da A ti porta a B senza godere di tutto quello che è l'imprevisto del viaggio, tutto ciò che può essere di gioia, degli incontri, delle deviazioni dei percorsi, del perdersi, del ritrovarsi in un luogo che è diverso da come l'hai immaginato e quindi spostarsi e andare in un'altra direzione. Ecco, un po' questo disco nasce in questo modo qua. Chiaramente io ho continuato a lavorare con il mio schema creativo, che presuppone che io ho dei materiali melodici, armonici, e poi in studio di fatto arriva proprio il momento della creazione di un album, proprio affrontando attraverso l'improvvisazione, affrontando assumendosi il rischio di trasfigurare queste idee di partenza per generare proprio in un concetto di viaggio una lunga suite in cui tu poi alla fine, quando arrivi alla ultimissima fase che fai proprio la struttura del disco, arrivi al contenuto e dici ok, volevo dire questo, una sorta quasi di autoanalisi, non lo so, è quasi una descrizione che arriva a posteriori, cioè è l'opposto del concept album che uno dice adesso realizzo un concept che vuol dire questo. Sì. Nel mio caso succede il contrario, io vado in studio, costruisco dei discorsi e scelgo in base alle sessioni di registrazione il discorso che voglio fare e che dico ok, questo è il discorso che voglio che rimanga nel tempo e che la gente lo ascolti e lo rielabori a suo piacimento e ci trovi poi quello che ognuno ha voglia di trovare nella musica, la cosa più bella poi, no? Assolutamente. E ascolta, già prima ci dicevi, no? Parlavi della Sardegna, parlavi dell'incontro tra culture, perché questo tuo viaggio in fin dei conti si muove nel bacino del Mediterraneo, no? Soprattutto. Assolutamente sì. Guarda, 10 giorni fa ho fatto un concerto al Cairo, per dire, all'Opera House, ed è stato per me un momento straordinario, perché in quelle latitudini si va raramente a suonare, no? Quindi percepisci quanto la cultura sarda e la specificità linguistica, musicale della nostra isola abbia più a che fare con quella sponda piuttosto che un rimbalzo, ad esempio, nella nostra penisola. E contemporaneamente ha più a che fare, ad esempio, con la penisola iberica, forse anche per il fatto che per 400 anni la Sardegna è stata colonizzata dalla corona di Aragon, quindi insomma ha avuto un contatto diretto anche con la cultura, penso, musicale di questa parte del mondo. Per cui quello che io cerco sempre è sul quale ormai ho centrato sicuramente gli ultimi 3 album, è di indagare quello che sta succedendo in questo momento nelle culture di avanguardia del Mediterraneo. Ci sono tantissime band che io ascolto, del Libano, dell'Egitto, di Cipro, Creta, della Tunisia, che stanno veramente costruendo dei percorsi inediti di riflessione musicale, molto più, secondo me, pertinenti col momento storico che stiamo vivendo di quanto invece avviene un po' in questa sacca stanca delle avanguardie occidentali, che in qualche modo sono state illuminanti per il secolo scorso, però che non hanno poi saputo vivere il meticciato culturale che stiamo vivendo in questo momento. È quasi come dire, il Mediterraneo arriva con tutta la sua forza e la sua complessità, perché il Mediterraneo è estremamente complesso, cioè certo, le culture che sono bagnate da questo mare, ognuna ha la sua identità, però allo stesso tempo ci sono degli elementi di unione che fanno sì che ci sia una sorta di grande arazzo creativo in questo momento che si respira al di fuori dei riflettori, per quanto i grandi festival si stanno accorgendo comunque di questa grande spinta creativa. E la cosa che a me affascina tantissimo è come queste culture spesso bevono dalle grandi intuizioni delle avanguardie occidentali, però hanno un sapore proprio legato alle radici differenti che hanno le culture del Mediterraneo. Se vogliamo, è un discorso che ciclicamente ritorna. Ogni volta penso a Creus Alemà, quanto sia tuttora un discorso estremamente attuale, il disco di Andrea insieme a Pagani, cioè, ha delle sonorità che sono estremamente contemporanee oggi, e che ricordo anche l'accoglienza tiepida che aveva avuto in quel momento quando uscì l'album, perché non erano pronti ad ascoltare queste sonorità, perché in qualche modo in quel momento l'Italia cercava di spogliarsi e di allontanarsi da quella memoria storica, perché voleva essere occidente. No? No, assolutamente, guarda, sposo e condivido tutto quello che hai detto, ma un dato che poi riguarda anche la prossima canzone che ci ascolteremo dopo esserci salutati, la canzone si chiama Nakba. Tu qui hai fatto un'operazione molto bella, perché ha a che fare con tutto quello che ci stai raccontando, ovviamente dalla parte musicale, ma anche del Mediterraneo, diciamo, in questo incontro tra culture e sperimentazioni, ma anche dal punto di vista linguistico, perché hai tradotto in gallurese è una poesia di un poeta palestinese che purtroppo è morto recentemente nella tragedia di Gaza. È stato ucciso dall'esercito israeliano. Sì, diciamo che questo album ha un altro elemento importante, che è il concetto della ciclicità. Il nostro malgrado come generazione, io insomma sono del 70, viviamo questa frustrazione di vedere questa distanza della necessità della costruzione di due stati e di avere un riconoscimento dell'identità palestinese, che è un qualcosa che mi accompagna da quando io facevo le manifestazioni delle scuole superiori, no? E vedi che i concetti non sono cambiati, che il livello di violenza è stato progressivamente incrementato, che il livello di assuefazione della società a questo standard di disumano è stato quasi sdoganato, come dire, sì, questo è il parametro di oggi, del 2025, cioè in cui un bambino, un vecchio, una donna diventano obiettivi quasi random per uno sterminio, è proprio un'assenza di umanità, no? Per cui io con questo disco sentivo la necessità di dire restiamo umani, cioè cavalchiamo un mondo ancora in cui la diversità, la convivenza fra popoli sia possibile. Quando ho letto il testo e soprattutto visto il video del poeta in cui lui proprio diceva ci sono i bombardamenti, probabilmente questo sarà il mio ultimo video, a me mi ha colpito tantissimo. Io stavo lavorando su questa melodia e a quel punto ho provato a costruire un arrangiamento attorno alla poesia If I Must Die di Refat al-Harer, e il problema nasceva sul piano proprio del linguaggio, cioè io trovavo un profondo disagio a cantare in inglese, perché io non mi sento un cantante, nel senso io utilizzo la voce più come un colore timbrico nel tessuto compositivo, però decisamente per me cantare è un qualcosa più legato all'idea di cantore che abbiamo in Sardegna, o che può esserci anche in Andalusia, cioè il cantore ha una funzione sociale ancora, cioè tu canti in Settimana Santa, rappresenti il popolo del luogo che ha il suo repertorio, però poi ritorni nella comunità e non sei il cantante, sei il cantore, no? È una funzione sociale. In questo caso qua, infatti, avevo pensato, faccio una voce guida e cerco poi una cantante araba da coinvolgere in questo disco. E allo stesso tempo però ho detto, però proviamo invece in gallurese, se riesco a trovare una chiave, anziché in inglese, in gallurese, se riesco a sentirla mia. E devo dire che ora, ogni qualvolta mi capita nei concerti di eseguirla dal vivo, è un brano che a me emoziona molto eseguire, perché la lingua, il suono primordiale, cioè che è quello che tu senti già da quando sei bambino, ha una forza che non ha la lingua che tu puoi imparare, studiare. Per cui sentire la descrizione di quest'uomo che chiede a a un bambino, costruisci l'aquilone per continuare a donare speranza agli altri bambini a Gaza, e che sia allo stesso tempo un aquilone che trasporti con sé la memoria di questa che è la nostra storia. Ogni volta che io lo interpreto mi commuovo da solo, nel senso un qualcosa che mi tocca, perché comunque cioè, ci sono tutti dei parametri così semplici, cioè l'aquilone che vola è qualcosa che è sempre il sogno di tutti i bambini del mondo, no? È qualcosa che è un po' un'iconografia della semplicità, dello sguardo verso il cielo del bambino e del sogno di volare, no? E in questo caso che dice, però, porta con sé la memoria struggente di un popolo che cerca di chiedere con questo aquilone, ti dice, ricorda però, aiutami a alimentare la speranza. Sì. Non c'è rabbia, non c'è sogno di vendetta, c'è un sogno di poter ancora costruire un mondo diverso. Quindi è un brano che dico Nakba, io l'ho intitolato proprio in riferimento all'evento storico che, sì, che c'era stato e che spero con tutto il cuore che non si riverifichi ora, perché i piani poi sociali sono quelli, cioè che vorrebbero una nuova mappa, vorrebbero letteralmente espellere e liberare la striscia di Gaza. Certo, quindi certo, in qualche modo è anche propiziatorio per dire, spero che sia un canto di memoria e sia un canto che attesti nel tempo a quello che è stato un evento dolorosissimo per l'umanità, ma che porti con sé la speranza di una rinascita. Questo è importante soprattutto in questo periodo segnato ovviamente da guerre, da genocidi, dall'auge delle estreme destre, dalla crisi delle democrazie, insomma, portare un po' di speranza e di ottimismo e di positività è fondamentale. Ascolta, ti volevo fare un'ultima domanda, Paolo, che ha a che fare con la parte musicale, no? Alcune cose ce l'hai già dette, no? Parlando di questo disco, però insomma, innanzitutto è un disco da solista, perché forse molti quando lo ascoltano pensano, ma come, non è una band? E dall'altra, ne abbiamo già parlato con te anche in passate interviste, del tuo strumento, questa chitarra preparata sarda, che da quanto ho potuto capire in questo caso è una nuova versione della tua chitarra. Sì, diciamo che fino all'ultimo momento questo album è stato un album particolarissimo. Primo perché è un album che probabilmente è stato quello che ho realizzato più velocemente nella mia carriera, cioè veramente è stato registrato in 5 ore, mixato in 2 giorni nel fantastico studio di Dave Bianchi a Sitges. È avuto proprio è stato come una nascita naturale, sai, un parto naturale, senza traumi, bellissimo, in riva al mare, perché lo studio è in riva al mare, è qualcosa di meraviglioso. È andato di pari passo con invece 2 anni di cottura a fuoco lento di un nuovo strumento. Perché cottura a fuoco lento? Perché comunque io ormai da più di 20 anni usavo la stessa chitarra, che era quella che era stata realizzata nella liuteria Stanzani in duplice copia per me e per Pat Metheny. E io sentivo questa necessità di evolvere il modello, di costruire nuovi prototipi, di variarlo. E ho trovato questo incontro bellissimo con la liuteria Michelutis di Cremona, dove insieme a Carlo e suo figlio Francesco abbiamo creato un nuovo strumento che rispondesse a tutte queste esigenze. Però mancava la parte meccanica, sai, la mia chitarra, per gli ascoltatori che non hanno mai visto questo strumento, da un lato è una chitarra sarda baritona, più grande della chitarra normale, potete farvi un'idea di come se fosse un grande chitarrone messicano, intarsiato, grande, arriva alle tonalità quasi del contrabbasso, si suona con l'archetto, si suona ad arpeggio, quindi ha tutta una serie di registri timbrici. Dall'altro ha un sistema di martelletti come il pianoforte, collegato a dei cavi che conducono a delle pedaliere, per cui la gran parte delle linee di basso vengono fatte come se fossi un organista, utilizzando i pedali che azionano i martelletti e che quindi creano queste strutture complesse, permettendomi di suonare poi sopra, mentre nel contempo io porto avanti un discorso da piccolo uomo orchestra, diciamo. A questo aggiungiamo il fatto che c'ha punti mobili per ottenere il suono del sitar, altri per ottenere il suono della ghironda con delle erichette, un altro ponte per avere il suono della cora del mali, e quindi è una piccola e propria, una vera e propria piccola orchestra che viene diciamo utilizzata proprio in termini compositivi con un arrangiamento come se fossero diversi strumenti. E lì c'è stato questo secondo incontro proprio in Sardegna, Luna Matrona, con Andrea Urru, che presso il suo laboratorio, che lui chiama Orang Guitar, ha realizzato finalmente i martelletti nuovi, cioè questo dopo 22 anni di utilizzo dei vecchi, e diciamo, per cui questa chitarra, diciamo, è tecnicamente molto più vicina al mio pensiero attuale di costruzione del fare musica. Per questo penso che anche il disco si sia sviluppato su sentieri più complessi, perché questo strumento mi permette di sviluppare, certo, degli arrangiamenti differenti. Per, sì, cui diciamo è stato estremamente creativo il processo a casa di esplorazione di questa chitarra, e devo dire che questa doppia collaborazione con degli artigiani straordinari mi ha dato tantissima gioia. Sì, sì, sì. Ma si capisce da come lo racconti e si capisce anche da come suona questo disco. Ci siamo ascoltati prima Schumacher, adesso ne abbiamo parlato, ci andiamo a ascoltare Nakba. Paolo, ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi e complimenti per questo nuovo progetto. In bocca al lupo per tutti i concerti che hai in lungo e in largo per il mondo nei prossimi mesi, e spero di rivederti e risentirti presto anche qui su Zibaldone. Guarda, io ringrazio te, è sempre un grandissimo piacere condividere pensieri musicali ed extramusicali. Una ultima nota appunto per gli ascoltatori: quello che sentite è suonato d'amblè, ossia è proprio come se fosse un live in studio, cioè non ci sono sovraincisioni, è suonato in presa diretta, semplicemente, ecco, un dato tecnico secondo me interessante. Questa polifonia è generata anche dal fatto che ogni corda, e in questo caso sono 25 le corde, ha un suo output, cioè un suo pick up, per cui voi sentite questi suoni separati nello spazio, perché ogni corda arriva elaborata da un processo di amplificazione individuale. Quindi da qui nasce questo suono orchestrale. Insomma, dovete andarvi a vedere Paolo Angeli dal vivo per capire bene questo strumento e vedere, insomma, come sei un mago nel riuscire non solo ad aver pensato e aver costruito questo strumento, ma riuscire a suonarlo così bene, perché veramente ci vogliono 10 lauree, ecco, come minimo, Paolo. O 10 lauree oppure un'ostinazione o entrambe le cose. Io ricordo il mio maestro di chitarra sarda, Giovanni Scaru, che aveva 95 anni quando faceva questa esclamazione. Quando io arrivai, c'è una foto bellissima nel mio sito in cui si vede lui che prova il mio primo prototipo, vedi, questo vecchio di 95 anni che arrivava dalla storia più antica della musica tradizionale, mi guarda e mi fa: cosa posso dirti? Adesso sei proprio un suonatore con i piedi. Io suonavo con i piedi, perché con le mani, no? Però sai, lui è rimasto ambiguo, non ho mai capito se era... Cosa voleva dire? Perché poi si era arrabbiato, mi ha detto: hai guasto la chitarra, lui diceva, nel senso, l'hai guasta. L'hai rovinata. Perché comunque avevo una chitarra sarda di un certo valore, l'avevo piegata alle mie esigenze creative per il primo prototipo, e l'avevo sicuramente resa un ibrido fra una chitarra Frankenstein, il primo prototipo per chi l'ha conosciuto era proprio una specie di creatura post-punk, sembrava queste sculture di metallo, una cosa proprio artigianale. Ascolta, un grande abbraccio Paolo, andiamo a ascoltarci la tua Nakba. Un abbraccio grandissimo, e a presto, e in bocca al lupo per tutto. Anche a te, ciao Paolo. Ciao, ciao. fuori classe la risata e campione assoluto di incassi. I presidenti delle Camere, seduti sulla sedia di Silvio Berlusconi, che ha il suo DNA, lo ricordano con affetto e ammirazione, ma la sedia crolla sotto il peso di due che fuggono senza essere identificati. Il presidente Trump invia Guardia Nazionale e Marines, senza i soldati, dice, la sedia brucerebbe. Venezia si divide sull'imminente matrimonio da favola del fondatore di Amazon Jeff Bezos con se stesso. Ad accoglierli all'Inate il ministro Tajani, che sostiene coprifuoco e arresti di massa, sotto shock. Chi guarda la vetrina mondiale? Dal tappetino del bagno di casa. Il dermatologo non farebbe male a una mosca. Prima di domani il governatore Zaia, proteste vergognose. Ha diritto di difendersi da un possibile attacco nucleare. I valori, la bellezza e l'eccellenza italiani per il ceto medio. La Premier Meloni rilancia l'evasione fiscale sotto un volo di frecce tricolori, mentre torna l'abbraccio commosso di Salvini e Lupi per le famiglie in difficoltà. Possibile intervento militare israeliano contro l'arricchimento. Checco Zalone declina l'offerta di guidare gli Ayatollah e torna al cinema con il film Vi apriremo le porte dell'inferno, ma sempre con il sorriso. Nelle sale italiane a Natale l'attore si divide fra fontane e monumenti, dispersione idrica e Confcommercio, poi porta in scena anche i temi sociali risalenti a 15 anni fa. In un mondo che è sempre più difficile riconoscere, sono tornate però le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo, Banzo, che ci mostrano come sempre una realtà forse un po' più tranquilla, un po' più ottimista di quella che invece stiamo scoprendo di giorno in giorno in questo 2025. Io se tranquillo e ottimista non lo so, però posso garantirvi che è più psichedelica, quello sicuramente, perché ci sono sempre delle aperture a scenari impensabili che ci lasciano piacevolmente storditi, come ad esempio la situazione di Checco Zalone con gli Ayatollah, questo sì. Rifiuto a guidarli, poi il titolo del nuovo film, che diciamo è un pelino didascalico, io fossi in lui lo accorcerei, perché se come fosse avere un titolo ficcante non è tutto il successo di un film, però contribuisce sicuramente. Poi abbiamo la Meloni che rilancia l'insegna del Made in Italy, sai, un'eccellenza italiana, l'evasione fiscale. Io sono un po' perplesso da questa manovra, non perché ne sia sorpreso, non perché la trovi deplorevole, ma perché penso che l'evasione fiscale in Italia non abbia bisogno di nessun rilancio, essendo sempre sulla cresta dell'onda. E poi, andando un po' a ritroso, chiudiamo con la misteriosa saga di questa sedia di Berlusconi, che ha il suo DNA, che si vede che si era talmente fusa in un ibrido uomo-sedia, sì. E ti invito a considerare che sarebbe un bellissimo titolo, la sedia di Berlusconi, per un qualunque medium artistico, un disco, un film, anche una poesia, lascia a te la scelta, una canzone. Beh, a proposito di canzoni, andiamo avanti, andiamo a scoprire Elena Sassoon, un'artista molto interessante, vi facciamo sentire due brani dal suo nuovo album, questo è il primo brano, si intitola Ay, che buena. Buena fue la hora que vos se alejaste. Si chiama Elana Sassoon, Ay Que Buena è il titolo di questo brano che ci siamo appena sentiti, che è tratto dal suo nuovo album, si intitola In Between, è uscito ad aprile di quest'anno e, come avete forse capito, è una fusione, no, tra diversi generi musicali ma anche diverse culture e diverse lingue, no? Quindi lei, tra l'altro, Elana Sassoon, è una cantante compositrice di origini persiane e curde, quindi c'è poesia per persiana, ci sono insomma in questo album canti di montagna curdi, armonie jazz, ritmi latini, insomma è un disco tutto da scoprire e insomma l'ascolto è molto piacevole, l'avete sentito, ha suonato tra l'altro Banzo a Valencia in Spagna questa primavera e dopo l'estate suonerà anche in Italia, in Sardegna al festival Isole che parlano l'11 settembre, se qualcuno magari avesse la possibilità di andarci, il 12 settembre invece a Milano. Insomma, è un dialogo tra lingue, tra suoni, Banzo, no? Questo disco, insomma, fa venire voglia di viaggiare, di pensare, di viaggiare anche con la mente. Beh, innanzitutto diciamo che il titolo è una chiara dichiarazione di intenti, perché In Between, cioè, diciamo, se volessimo dirlo in modo poco alato, diciamo, è il tenere il piede in più scarpe. Poi in realtà è un concetto molto più complesso che indica quanto possa essere sfumata l'identità e complessa la stratificazione delle identità che una persona può assumere, in questo caso appunto lei è americana, ma ha queste radici persiane e curde, ed è un concetto che credo si possa capire agevolmente anche a partire dall'empatia e dalla curiosità, però insomma dopo un referendum nel quale in Italia la destra ci ha bombardato dicendo che la cittadinanza non si regala, ecco, insomma tutto questo concetto sul discorso che si può fare sulla stratificazione delle identità, diciamo che cade un po' nel vuoto, ma cioè, sempre ricollegandoci all'attualità, però tornando all'arte è un discorso che evidentemente è molto valido, Steven, perché cioè anche solo ascoltando questo brano si sente come tu hai citato alcuni riferimenti, ecco, il piano jazz, che insomma è un retaggio musicale occidentale dei neri americani, però è ampiamente integrato nella cultura occidentale, con una melodia che invece si rifà molto all'Oriente, appunto, quindi già quello è un esempio di dialogo, senza volere, il termine fusion è un po' abusato evidentemente, perché è molto valido, e ecco come succede i termini che vengono usati molto, e effettivamente è un brano in cui questi due aspetti coesistono in modo eccellente. Sì, sì, tra l'altro anche la formazione è internazionale, Elena Sassoon è accompagnata da Matteo Saglio al violoncello, Keve Sarvarian al ney e al tombak e Miron Rafailovic alla tromba. Andiamo a ascoltarci in questi sgoccioli che ci rimangono qui oggi su Radio Contrabbanda, una seconda canzone di Elena Sassoon da questo In Between, si intitola Nerges, spero di pronunciarlo bene. Shan hazon binaicheman bidleman yoyi darun mahalalan bidleman yoyi darun mahalalan kiyon zayebaste khat Questo è il secondo brano di Elena Sassoon. Prima ho fatto una cappella perché ho solo detto Banzo, gli artisti invitati, Matthew Saglio, Kaveh Sarvajan, Miron Rafailovic, ma ci sono poi invece chi accompagna nella main band, nel gruppo Elena Sassoon, ossia Santiago Bertel al piano, Mano Stratis al basso e Victor Goldschmidt alla batteria. E, siamo davvero agli sgoccioli, Banzo, però come sempre ci salutiamo con un'ultima canzone che ci porta in giro per il mondo, ossia porta canzoni italiane in giro per il mondo interpretate in altre lingue. Dove finiamo quest'oggi? Raccontalo tu ai nostri ascoltatori. Comunque io oggi, Steven, sono sbattezzato, mi chiedo se hai assunto qualche sostanza, come per esempio, non lo so, l'aspirina, anche solo. Ma ecco, sì, mi chiedevi dove andiamo, siamo passati per molti luoghi, il Mediterraneo, insomma, sia il mondo curdo e persiano, e arriviamo a Samarcanda, quindi in Uzbekistan, ma con un giro ancora più contorto, perché è ovviamente il nostro ultimo trago da Italia a altra parte, un brano italiano in un'altra lingua, quindi andiamo a recuperare Samarcanda, il brano celeberrimo di Roberto Vecchioni, che il 25 giugno festeggerà gli 82 anni. Auguri! E grande, c'è sempre quel momento in cui aspetto che tu dica auguri. Adesso procedo, è bellissimo, sono delle sinergie che abbiamo. E quindi dicevo, perché abbiamo fatto un giro stranissimo? Perché per parlare della per farvi sentire la canzone di Vecchioni che avete sentito in tutte le salse, se siete italiani nel corso della vostra vita, andiamo in Germania. Ed è una cosa abbastanza curiosa, con una versione in tedesco che però si intitola O Cavallo. Cioè il testo è tutto in tedesco, ma come sentirete, O Cavallo è pronunciato in italiano con un vago accento tedesco. L'effetto è spiazzante, qualcuno può trovarlo esilarante, suppongo, ma non ho ancora detto chi interpreta questo dillo. Brano, perché è una cantante pop di successo, Lena Valaitis, ovviamente è ancora in attività, ovviamente di successo nel mondo germanofono, in Italia non si conosce molto, e il brano è stato scritto da Christian Heilburg, e a parte l'arrangiamento, il testo in tedesco mantiene pochissimo dell'originale, perché adesso ti dico il sottotitolo è Don Chisciotte, perché la canzone, quindi aggiungiamo la Spagna, parla dell'eroe di Cervantes e ai suoi emuli moderni. Quindi nel 1978 c'è anche un parallelismo che io trovo abbastanza azzardato fra Don Chisciotte, i mulini a vento, Dulcinea e tutto quello che sapete, con le gare di velocità in auto e in moto per impressionare il partner dell'altro sesso. Questo sembra povero Niki Lauda. È una, oddio Steve, è una puntata veramente ai confini della realtà. Meno male che abbiamo avuto Paolo Angeli con noi, che ci ha infuso di buon senso e arte. Esattamente. Eravamo abbastanza sbarellati. Sarà il caldo che arriva dell'estate. Ascolta, siamo alla fine delle puntate, andiamo a ascoltarci questa O Cavallo, ma prima, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che alle 17.56 diceva tutti venerdì. Comunque domani comincia l'estate, buona estate a tutti, e se potete cercate con le vostre azioni di non peggiorare in nessun modo la situazione geopolitica internazionale. Ciao Banzo, ciao a tutti, buon venerdì sera. O Cavallo, ossia Samarcanda di Vecchioni in versione tedesca. Es war schon vor ein paar hundert Jahren, da hat in Spanien ein Mann gelebt. Jeder kennt heute noch seine Taten und man erinnert sich noch an sein Pferd. Leider gab es früher ja noch kein Fernsehen, doch er war überall wohl bekannt. Das das Tempo, das er ritt, war glatter Wahnsinn. Rosinante hat er seinen Gaul genannt. Damals stand unser Mann einer Dame näher, was es ja allgemein auch heute noch gibt. Don Quixote, so hieß er, und sie Dulcinea, und für sie zog er gleich erstmal in den Krieg. Leider lag Don Quixote damit nicht sehr richtig, das hat sich hinterher herausgestellt. Lauter Test war der Herr nämlich kurzsichtig, doch für sie spielte er gern den Held. Er sah ein paar Windmühlenflüge und schloss daraus, da sei der Feind. Er hat gekämpft und wurde nicht müde, vor Lachen hat die halbe Stadt geweint. Oh, oh, Cavallo, oh, oh, Cavallo, oh, oh, Cavallo, oh, oh, Cavallo, oh, oh. Wer nun glaubt, alles sei rein erfunden, sehe sich bei uns doch mal richtig um. Don Quixotes gibt es noch, alte und junge, und sie alle laufen meist frei herum. Statt einer Pferdestärke haben sie Hunde, und die Sporen sind ihr Gaspedal. Dabei werden sie auch oft noch bewundert, und sie finden sich selbst ideal. Manche sind dazu noch ziemlich eitel, in der Regel sind daran die Damen schuld. Rundherum gut geschnürt vom Reifen bis zum Scheitel, und der Motor grölt vor Ungeduld. Vielen gab der Doktor eine Kurzsichtbrille, doch sie tragen nicht einmal einen Gurt. Und man könnte meinen, ihr allerletzter Wille hieße, ich will dahin, wo Don Quixote ruht. Wenn ihr mal einem dieser Art begegnet, seid am besten ruhig und reizt ihn nicht. Denn er ist mit Klugheit nicht unbedingt gesegnet, grüßt ihn nur mit einem Lächeln im Gesicht. Oh, oh, Cavallo, oh, oh, Cavallo, oh, oh, Cavallo, oh, oh, Cavallo, oh, oh. Oh, oh, Cavallo, oh, oh, Cavallo, oh, oh, Cavallo, oh, oh, Cavallo, oh, oh.